Motore partito, azione! Ciao, sono Emanuele e volevo ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 19 va in onda Movieland, il cinema alla radio. Curiosità da Hollywood, panoramica sui film in sala, approfondimenti ed interviste con i protagonisti della settima arte. Il tutto accompagnato dalle canzoni che sono state la colonna sonora di tanti film e della vostra vita. Movieland, se siete amanti del cinema, è un appuntamento al quale non potete assolutamente mancare. Ogni sabato sulla vostra radio dalle 18 alle 19. Vi aspetto. L'occorrente per iniziare bene questo sabato pomeriggio insieme a Movieland è un tornio, un vaso di terracotta fresca e Demi Moore. Sì, vabbè. No, era solo per ricordarvi che questa che stiamo ascoltando, ma l'avrete riconosciuta senz'altro tutti, è Ride House Brothers con Enchained Melody, una canzone del 1955 utilizzata nel film Ghost del 1990 con Demi Moore e Patrick Swayze. Benissimo, io sono Emanuele, questa è Movieland, abbiamo iniziato con la grande musica da cinema e vogliamo anche continuare così. Io vi ricordo che sono appunto Emanuele, Movieland insieme a voi ogni sabato dalle 18 alle 20 sulla vostra web radio preferita. Potete incontrarci anche durante la settimana, vedere gli aggiornamenti sulla nostra pagina di Facebook che è Movieland Italia, e poi se volete contattarci per chiederci qualsiasi cosa, di mettere la vostra canzone del cinema preferita eccetera eccetera, lo potete fare tramite mail a movieland.radio@gmail.com. detto questo, andiamo avanti perché la puntata è densa di chiacchiere, ma densa anche di bella musica da cinema. Buon ascolto con Movieland. Ebbene sì, questa è This Must Be The Place, dal film di Sorrentino con Sean Penn del 2011, la canta Gloria. Christmas with the Place, dalla colonna sonora del film omonimo di Paolo Sorrentino del 2011, questa era la bella e simpatica Gloria che cantava questa bella e ritmata canzoncina. Noi adesso però vogliamo iniziare a parlare un po' di cinema, lo facciamo con il cinema indipendente, con i festival cinematografici. Infatti torna l'appuntamento con il cinema indipendente a Lucca, ospite d'eccezione Peter Greenaway. Il programma dal 23 al 27 settembre, infatti, sarà il festival di Lucca Film Festival. Sarà il pittore, regista e sceneggiatore gallese Peter Greenaway l'ospite d'eccezione della nuova nona edizione del Lucca Film Festival, la manifestazione internazionale di cinema che si svolgerà dal 23 al 27 settembre nel capoluogo toscano tra Cinema Centrale, Auditorium della Fondazione BML e Cinema Italia. Il festival è ideato e organizzato dall'associazione Vista Nova, la rassegna è sponsorizzata dal comune e la provincia di Lucca con il patrocinio della regione toscana. Il festival, che è alla sua nona edizione, continua il percorso di ricerca con uno sguardo attento sia all'avanguardia del cinema indipendente con giovani autori, emergenti europei, artisti affermati dalla critica, sia alle personalità che hanno fatto il grande cinema del passato. Infatti l'omaggio a Peter Greenaway, uno dei più significativi cineasti della cinematografia britannica contemporanea, propone 5 film, i più significativi della sua carriera come regista. Quindi chi si trovasse nei pressi di Lucca tra il 23 e il 27 settembre è invitato naturalmente ad andare a vedere questo bellissimo Lucca Film Festival. Ma bando alle ciance e ciancio alle bande, perché la prossima canzone che ci andiamo ad ascoltare naturalmente proviene dalle colonne sonore dei film, ma non di uno, se no di più di uno, perché dal 1983, quando è uscita, non ha fatto altro che essere presente in tantissime colonne sonore, a partire dai film fino alle serie TV e anche ai cartoni. È questa qui, la riconoscete? Eurythmics, Sweet Dreams, colonna sonora di Un Papà Speciale, di Tron Legacy, dei Simpson, di quello che volete. È stata da tutte le parti, la grandissima Annie Lennox ci viene a trovare in questo sabato pomeriggio. Buon ascolto, perché siete su Dream, su Movieland, insieme ad Emanuele fino alle 19. Buon ascolto. Some of them want to abuse you. Some of them want. E anche questa settimana con Movieland arriviamo all'appuntamento con Sara di Venezia, che finalmente è finita la mostra del cinema. Non parleremo più della mostra del cinema di Venezia, ma oggi ci vuole raccontare le sue impressioni su due bellissimi film, uno di Michel Gondry, un altro di Sofia Coppola, uno che parla dei ragazzi, dei giovani americani, e uno che parla di danza classica con il tutù, giusto? No, assolutamente. Ah no? Buongiorno a tutti. Ciao Emanuele. Ciao. No, no, assolutamente. Non è con il tutù? Niente tutù. Ah. Allora, uno, giustamente come hai detto tu, è il film di Sofia Coppola. Sì. E l'altro è quello di Michel Gondry. Solo che non parla del tutù. È una bellissima storia d'amore, un po' surreale, con Audrey Tutù. Ah, ecco, vedi che c'era però. Sì, ma la danza classica non c'entra niente. Lei è molto aggraziata e dolce, però non fa danza classica. Lei è la protagonista. Ti ricordi di che film? Ti ho fatto una testa così? Sì, di Amélie. Dai. Di Amélie, certo, il favoloso, certo. mondo di Amélie. Titoli completi. Favoloso, certo. E adesso ha fatto questo nuovo film ambientato nella mia città preferita, cioè Parigi. E non potevo parlarvene che io, ovviamente. Certo, ma parlacene però. Sì, ve ne parlo. Allora, mi ha colpito molto il trailer di questo film, che appunto ha questi tratti surreali, e ho deciso di affrontare la tematica. Diciamo che Mood Indigo è tratto da un romanzo del 1947 scritto da Boris Vian e intitolato La schiuma dei giorni, L'écume des jours, in francese. Bello. L'uscita in Francia è stata il 24 aprile, quindi tantissimo tempo fa. Noi invece lo vediamo proprio in questi giorni nelle sale. Ha avuto delle ottime critiche, delle ottime recensioni, soprattutto in Francia. E parla della storia di un facoltoso parigino che si innamora della graziosa Chloé, che è appunto Audrey Tautou, l'incarnazione di una canzone di Duke Ellington. I due convolano presto a nozze, ma durante la luna di miele c'è un problema che non vi voglio raccontare, altrimenti non lo andate a vedere. E diciamo, l'innamorato cercherà in tutti i modi di risolvere questo problema per la sua amata, e attraverso dei momenti nostalgici, appunto proprio con questa musica anche jazz molto ritmata di Duke Ellington, il regista dà una prova della grande immaginazione, dove riesce a trascinare proprio lo spettatore in un mondo magico al limite del surreale, però senza mai risultare né stucchevole né inverosimile. Questa è proprio la caratteristica di questo regista. Sì, no, ma infatti è bello. Ho visto alcune immagini del trailer, anzi, se volete, tutti gli ascoltatori di Movieland, andate a cercarvi il trailer di questo Mood Indigo, che è molto interessante e molto carino. Ma passiamo alla prossima rassegna, diciamo. Che cosa, di che parla sto film di Sofia Coppola? Ecco, anche questo film di Sofia Coppola invece è molto interessante, perché dà proprio uno spaccato di una società che fa dell'emulazione dei VIP, del personaggio famoso, uno stile di vita. La tematica è molto ambigua del film, e anche il trailer, perché dal trailer non si capiscono tante cose. Però la regista ha saputo raccontare l'ennesima fotografia del lato oscuro e vuoto di una generazione viziata e schiava di quello che è l'effimero. Perché, diciamo, la trama è più o meno questa: in una Los Angeles tormentata dal successo, un gruppo di adolescenti comincia a commettere, quasi per gioco, dei crimini nelle colline di Hollywood. Entra in casa di alcune star, eccetera, perché ha un'ossessione di vivere la vita di queste star. Abbiamo Paris Hilton, Orlando Bloom e Kirsten Dunst proprio nei panni di loro stessi all'interno di questo film. Ah, interessante, interessante, promette bene questo film, distribuito dalla Lucky Red, nelle sale dal 26 settembre, quindi dalla prossima settimana. Sì. Comunque è stato anche a Cannes nel 2013, ha fatto un bel successo, quindi aspettiamo di vederlo in sala dal 26 26 settembre in poi, Sofia Coppola. Il film si chiama, naturalmente non abbiamo detto, Bling Ring, Bling Ring, altrimenti sì, ci dimentichiamo il titolo. Va bene, io ringrazio Sara un'altra settimana che è stata con noi e ci ha portato le sue perle, e niente, ci sentiamo la settimana prossima, grazie. Sicuramente, ciao Emanuele, ciao a tutti. Ciao. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. Where troubles melt like lemon drops away above. Fly. Quanto mi piace questa versione di Chiara Gagliazzo, che ci ha scassato, perché ce la stanno mettendo sempre in televisione con queste pubblicità della Team, ma questa canzone è molto bella, mi piace tantissimo, colonna sonora del primissimo Mago di Oz, cantata da Judy Garland, però questa, in questa versione appunto della Gagliazzo, è molto carina. Noi vogliamo andare avanti, prima ci siamo ascoltati The Lumineers con Hohei, tratto appunto dal trailer di Mood Indigo, questo film con Audrey Tautou, però noi andiamo avanti perché adesso è l'ora, arriva il momento di Film Up e dei trailer. Movieland, il cinema alla radio, spazio in collaborazione con filmup.com. Ti farò diventare ricco. Andrai a lavorare per il mio concorrente. Questo è spionaggio industriale. Questa è l'opportunità che stavi aspettando. Tutto ha un prezzo. Quello che voleva, mi dia i miei soldi. Ho chiuso. Tu hai chiuso, figliolo, solo quando lo dico io. Sei di mia proprietà. Qual è il tuo? Harrison Ford, Gary Oldman, Liam Hemsworth. Il potere dei soldi. Il ragazzino sa troppo. Al cinema. Noi non siamo imparentati. Mia figlia qui è solo una senza tetto punk. E mio figlio è uno sfigato che vive nel mio condominio. Neanche ci somigliamo. E mia moglie una spogliarellista di quarto ordine. Ok, dimostralo. Abbiamo derubato un trafficante internazionale. Una piccola partita. Tu guadagnerai $500,000 e a me volevi darne solamente 30. E a me ha detto solamente 1,000. Non ho capito, vi pagavo. Come ti spaccio la famiglia dal 12 settembre al cinema. Tutti i semidei verranno uccisi nell'arco di qualche giorno. Andiamo. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Il mare dei mostri. Al cinema. Giornata dura, eh? Dove sono? Sei morto. È uno scherzo. Divertente. Sei in gamba e ci servi. Ti offriamo di entrare nell'RIPD. L'RIPD? Il dipartimento riposa in pace. No! Credo che tu abbia capito di che si tratta. Il tuo lavoro consiste nel catturare i Dedos, anime malvagie sfuggite al giudizio. Ti presento il tuo nuovo partner. No, devi meritarlo. Andiamo. Noi siamo i migliori sbirri mai vissuti e morti. Ci sono anime che si nascondono tra i vivi. Merda! E ora in mezzo a quali occhi ti sparo? Non è tutto. Non hai più la tua faccia e non hai più la tua voce. E io che faccio? Stai scherzando? Un vecchio cinese. E tu invece? Beh, hai vinto, Roy. Sei pronto? Stanley Nowicki. Siamo ispettori della sanità. Noi sospettiamo che lei sia morto. Questo è tutto tuo. Te lo regalo. No, io a quello non mi ci avvicino. Non irrigidirti! Come avrai notato, siamo molto resistenti. Fa male lo stesso. Non ho mai visto niente del genere. Se i morti prendono il controllo, è finita per i vivi. Hanno scelto il posto sbagliato per alzare le penne. Questo mondo è dei vivi e grazie all'RIPD continuerà a esserlo. Porca miseria! È andata bene! Sempre che non finisca il mondo. Divertente, no? Non irrigidirti. Movieland, il cinema alla radio. Un'altra settimana insieme a Film Up, il portale del cinema, e un'altra settimana insieme ad Erika Melis. Ciao Erika. Ciao Emanuele. Oh, allora siamo entrati, possiamo dire è sbocciato l'autunno, perché alla fine siamo tornati, è ricominciata la stagione cinematografica. Dopo l'estate escono tanti film in sala, ce ne sono più di 10 che escono questa settimana, ma noi intanto vogliamo parlare di un probabile sequel che io non l'avrei mai detto sinceramente, che a Hollywood stanno programmando di preparare. Raccontaci. Sì, è proprio il protagonista a parlarcene, Brad Pitt, che a giugno, come ricorderai, è arrivato nelle nostre sale con World War Z, un film sugli zombie basato sul libro di Max Brooks. Sì. E a quanto pare, nonostante la critica l'abbia un po' stroncato e anche gli spettatori non siano stati proprio così entusiasti del film, a quanto pare vogliono fare un sequel, e a dirlo è proprio lui. Dice che ne stanno parlando seriamente e che ci sono tante idee sul tavolo per capire come sviluppare una dinamica sul mondo degli zombie. Bah, è strano, perché il mondo di Hollywood stronca subito le gambe a chi non gli dà rentabilità, diciamo. Cioè, alla fine il film è costato 220 milioni di dollari, e in America ha guadagnato poco più, giusto per coprire le spese, in tutto il mondo circa 500 milioni di dollari, però cioè. Sono abituati a incassi da non lo so, tantissimi più soldi. E vabbè, comunque sì. Staremo a vedere se questo sequel sarà realtà, uscirà davvero oppure no. Ma parliamo però dei film in sala, ne sono usciti più di 10, di quali sì. Vuoi parlarci? Veramente tantissimi. Magari possiamo iniziare parlando del film fantastico Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Il male dei mostri, che è il sequel del Ladro di fulmini. È un film dedicato naturalmente ai teenager, ai più giovani, ed è basato su un omonimo bestseller. Mm-hmm. E racconta le avventure del semidio del titolo e dei suoi amici. Come magari chi ha visto il primo capitolo ricorderà, che c'è una zona protetta dove questi semidei possono imparare a usare i loro poteri, a sì. Vivere, insomma, una specie di college, mm-hmm. Diciamo, per semidei. Questo mondo viene in qualche modo messo in pericolo, e allora il nostro eroe deve andare insieme ai suoi amici a cercare il vello d'oro per ripristinare la situazione. Per farlo deve andare in questo mare, in acque sottrarate, nel mare dei mostri, uh-huh. Che noi conosciamo come Triangolo delle Bermuda, e certo. Combattere delle terribili creature per recuperare questo vello d'oro. Staremo a vedere, quindi. Poi cosa esce? Poi un altro film molto interessante, Ripped, Poliziotti dell'aldilà. Uh-huh. Che è con Ryan Reynolds e Jeff Bridges, un attore che io adoro, devo essere sincera. Certo. Ed è basato su un fumetto dove due agenti molto molto speciali, perché sono due agenti morti dall'aldilà, fanno parte del dipartimento Riposa in Pace, tornano sulla Terra per aiutare a proteggere gli esseri viventi minacciati da quelle anime che non si rifiutano di trasmigrare pacificamente nell'aldilà. Ah, ecco. Jeff Bridges, devo dire che con gli anni, con l'età, ha acquistato fascino e gli fanno fare ruoli un po' particolari. Poi ce lo ricordiamo in Iron Man con la pelata spettacolare, e adesso con questo personaggio un po' western, cioè diciamo che le rughe a Jeff Bridges gli donano. Assolutamente sì, d'accordissimo. Poi parlando sempre di attori interessanti, i prossimi sono Harrison Ford e Gary Oldman, che sono mm-hmm. veramente bravissimi e molto affascinanti nonostante l'età, che affiancano il giovane Liam Hemsworth in Il potere dei soldi, un film drammatico di Robert Luketic ambientato nel spionaggio industriale. Infatti un giovane interpretato dalla Hemsworth, dipendente di una grossa società di telecomunicazioni, si mette nei guai, e quando viene scoperto il suo capo, anziché licenziarlo, gli propone di entrare come dipendente in una società rivale per spiarli. Che però poi i due, io ho visto il trailer solamente, ma i due sono d'accordo? Non ho visto il film, però anche a me sembrerebbe, devo essere sincera, non l'ho ancora visto. Bene, benissimo. Allora, facendo una una disamina, un'analisi un po', diciamo, dietrologica, possiamo dire che al cinema questa settimana abbiamo Harry Potter, abbiamo Men in Black, e abbiamo praticamente questo qua che può essere paragonato al Nemico Pubblico. Sì. Diciamo che a Hollywood non hanno tanto le idee chiare sulle novità, però va bene, diciamo, sono cose che funzionano negli anni, quindi vengono riproposte. Diciamo che ti danno qualche ora di tranquillità senza pensare a niente, così come l'ultimo film di cui volevo accennare questa settimana, che è una commedia, si intitola Come ti spaccio la famiglia. Un film, diciamo, gradevole, senza pretese, con una Jennifer Aniston molto molto molto sensuale, che darà prova di sé con vari spogliarelli, insomma è un film simpatico dove uno spacciatore di marijuana, per ripagare un debito, è costretto ad andare in Messico e portare attraverso un camper una grossa partita di droga. E così è simpatico. Per fare questo pensa di affittare, tra virgolette, una famiglia, visto che lui è single, allora chiede l'aiuto, la complicità di una spogliarellista che si finge sua moglie, di un giovane imbranato e di una ragazza molto svaliziata con cui farà il viaggio. Insomma, ci sono situazioni molto divertenti e comiche. Benissimo, quindi anche questa settimana abbiamo di che andare a vedere al cinema, quindi ragazzi, tutti gli ascoltatori di Movieland, mi raccomando, andate al cinema a vedere questi bei film in uscita questa settimana, ce ne sono tanti altri, avete un'ampia scelta, finalmente nei cinema con 11 sale magari ci saranno 11 film nuovi, cosa che non succede molto spesso. Benissimo, ringrazio Erika Melis un'altra settimana di essere stata con noi, ci sentiamo la settimana prossima, un saluto. Grazie a te, ciao. Movieland, il cinema alla radio. I put the needle in a groove to a song that fits the mood. I watch the record spin around. My hips before my mind, my feet are walking over time, shoes slapping on the floor. Come on, let's rock some more. Che sarebbe stata una puntata movimentata. Questi sono i Loomis and the Last con Bright Red Shorts dal film Comic Movie 2013, quello che sarà nelle sale tra poco, appunto, il purpurri in chiave di parodia di tutti i vari i film comici che si sono susseguiti. Ma adesso andiamo avanti, perché io avevo una notizia da darvi, ve la do, dai, non crepi l'avarizia.

me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me. Sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. A Movieland oggi vogliamo conoscere quello che potrebbe essere l'ascoltatore tipo del nostro programma, perché si fa chiamare, è conosciuto su YouTube come un cinefilo qualunque. Lui si chiama Simone Longo, è un ragazzo romano di Ostia, di 25 anni, che ha creato un videoblog, diciamo, che fa dei video sui film magari che ha visto, sulle opinioni che ha dei degli eventi cinematografici, eccetera eccetera. Noi l'abbiamo in diretta insieme a noi quest'oggi. Ciao Simone. Salve a tutti i cinefili di tutto il mondo, ringrazio Emanuele per avermi invitato. Io sono un cinefilo qualunque, ho già detto, sono pronto insomma a rispondere a qualche domanda magari su quelli che possono essere le mie preferenze cinematografiche. Questo potrà essere l'inizio insomma di una collaborazione a lungo termine con la web radio. Sì, ma infatti noi vogliamo appunto tenerti tutte le settimane insieme a noi, perché comunque abbiamo visto delle cose su YouTube che ci sono piaciute. L'ultimo podcast che hai fatto riguardava le tue 7 stranezze cinematografiche, diciamo le 7 manie. Sì. Però non vogliamo svelare troppo, perché magari a chi può interessare può andare direttamente sul canale YouTube e vedersi questo pezzettino di video. Sulla radio vogliamo fare delle cose un po' diverse. Quindi allora, perché intanto ti è venuta questa passione di parlare di cinema? Guarda, io ho iniziato quando avevo intorno ai 16 anni, ma era una passione molto blanda, ecco. Se proprio lo vuoi sapere, scaricavo come una bestia immonda qualsiasi cosa da internet e me la guardavo. Non avevo decisamente il senso critico per poter dire quel film è bello, quel film è brutto, quindi devo ammettere di aver visto tante tante cacate, compresi i cinepanettoni. Però questa cosa ovviamente mi ha aiutato a riconoscere ciò che è di qualità e ciò che invece è un'enorme cacata. E qual è il tuo film preferito e qual è il tuo film proprio che non lo puoi più vedere proprio? No? Guarda, per un cinefilo dire un film preferito è un po' come puntare una pistola alla tempia, perché sarebbe impossibile dire un film che preferisco, perché ce ne stanno comunque tanti. Però ti posso dire che i film che mi sono rimasti dentro ci sono diversi, e te ne potrei citare qualcuno, ma vai. Ti dico questi come te potrei dire altri 10.000. Vai. Molti miei fan sanno, perché li ho nominati in diverse occasioni, per dire Sleepers, che a me è piaciuto tantissimo. Un film che è proprio rimasto dentro, che contiene una forte componente nostalgica, che proprio ti fa venire il magone alla fine del film, soprattutto la frase finale, per chi ha visto il film sa di cosa parlo. Anche Mi chiamo Sam è un film che resterà sempre nel mio cuore, e che periodicamente me lo riguardo. Diciamo che qualche lacrimuccia ogni tanto ci può anche scappare. Certo. Nonostante che l'ho visto 10.000 volte, riguardarlo per me ogni volta è come guardarlo per la prima volta. E poi ti potrei dire più che altro generi che preferisco. Indubbiamente la commedia è uno dei generi che preferisco in assoluto. Per passare invece al film, quello che proprio non noia fai? Il film che proprio noia fai, ce ne stanno diversi. Diciamo che i film che effettivamente mi sono piaciuti di meno sono quelli che mi hanno costretto a guardare, effettivamente, perché come ti ho detto, col passare del tempo ho imparato comunque a discernere, a guardare solo quello che mi piaceva e quello che sapevo essere dei bei film, quindi raramente becco delle cantonate. Le volte che ho beccato delle cantonate erano perché sono andato a vedere dei film che mi hanno in un certo qual modo costretto a vedere. Certo. Vai al cinema con un gruppo di amici e ti capita di vedere dei film di merda perché l'hanno voluto guardare loro. Se un film è horror, a me deve mettere paura, non mi deve far ridere. Quel film a me mi ha fatto ridere, considerando che a me gli horror mi fanno cagare sotto dalla paura. Sono un cagasotto, lo dico anche nel mio ultimo video sulle 7 stranezze cinefile. Quel film, se mi fa ridere, non ha senso, insomma. Certo. Certo. Parlaci un attimo del tuo canale YouTube. Quindi hai un canale YouTube dove pubblichi questi video e dove hai un seguito tanto da voler indire dei premi, dei concorsi. Sì, fino adesso ho fatto dei semiconcorsi ogni volta per quanto riguardava il raggiungimento di determinati traguardi, un tot di iscritti. Ho fatto uno per i 100, uno per i 300 e l'ultimo per i 700. Il prossimo, però questi sono sempre stati semiconcorsi, nel senso che le vittorie che chi vinceva veniva sponsorizzato dal mio canale e da tante altre pagine Facebook che partecipavano alla sponsorizzazione dei video vincitori. E invece adesso, quando raggiungerò i 1000 iscritti, ed effettivamente non mi manca neanche poi tanto, ho intenzione di indire proprio un concorso in cui i premi saranno dei veri e propri film DVD. E ho anche in mente un'altra piccola cosa, un po' più per gli utenti. Sarà un casino della Madonna girare e fare questa cosa, sarà una mole enorme di lavoro, però lo faccio con molto piacere, perché il raggiungimento di un traguardo del genere per me è davvero straordinario. Certo, la vogliamo dire una sorpresa? Una sorpresa. Vabbè, okay. E poi un'altra cosettina che avevo in mente, però non so se la farò, perché è una cosa piuttosto particolare che sapranno soltanto coloro che ascolteranno questa trasmissione. Che avevo intenzione di fare, spero di riuscire a fare. Vorrei indire in questo caso anche un premio per gli utenti che non sono youtubers, che non fanno video. E ho intenzione di fare un questionario con delle domande che riguardano sempre il cinema, che riguardano i miei gusti cinematografici. Quindi colui che vincerà dovrà per forza conoscermi e aver visto buona parte dei miei video. E certo, interessante. Sarà un premio che comprenderà un paio, penso, grosso modo, di premi, appunto, e che però li riceverà soltanto colui che mi conoscerà abbastanza bene. Ottimo, ottimo. Mi molta... tengo ego quantomeno come cosa. molto carina l'iniziativa. Siamo arrivati purtroppo già alla fine del tempo per oggi, quindi bisogna salutarci. Grazie Simone di essere stato insieme a noi. Grazie a te. E ci sentiamo la settimana prossima con le tue considerazioni, le tue opinioni sui film. Già decideremo di cosa parleremo la settimana prossima. Facci pubblicità su YouTube, noi ti faremo pubblicità in radio, faremo in modo che questi 1000 si raggiungano alla svelta. Grazie. Ok, ciao, un saluto. Movieland, il cinema alla radio. Come avete l'opportunità di vedere, Movieland ogni settimana si arricchisce, ogni settimana c'è qualcosa di nuovo, stiamo reclutando nuove leve, quindi bene bene, ci piace questo sviluppo che sta prendendo la cosa. Dobbiamo salutarci, siamo arrivati alla fine anche per questa settimana. C'è l'ultima rubrichetta che tutte le settimane leggo per chi non avesse proprio voglia di andare al cinema. Noi esortiamo sempre ad andare tutti i nostri ascoltatori al cinema, perché il cinema va sostenuto. Però se proprio non vi fa voglia, se vi volete spaparanzare sul divano, i piedi sul tavolo e guardare qualcosa alla TV, naturalmente non guardate le partite o non guardate programmi tipo Ballando con le Stelle, quella roba là. Non guardate la TV spazzatura, guardate il grande cinema internazionale di tutta la vita e che ha fatto la storia del cinema. Infatti in televisione questa sera ci sono ben 4 film molto belli, di cui uno di animazione, che vi invito a vedere se non volete andare al cinema, che sono su Rai 3 alle 21.05 Viaggio al centro della Terra, su Italia 1 alle 21.10 Kung Fu Panda per tutti i bambini, su Rete 4 alle 21.20 invece Black Hawk Down, Tempesta di Fuoco. Oppure in seconda serata, per chi magari è andato a cena fuori, torna tardi e vuol vedersi un bel film, ci sarà Il destino di un cavaliere su Italia 1 appunto alle 23. Questo è tutto per oggi, è tutto per questa puntata di Movieland. Io vi rimando a sabato prossimo, un saluto, un bacino a tutti e ci sentiamo la settimana prossima. Grazie per essere stati insieme a noi, insieme a me, che sono, ve lo ricordo, Emanuele. Motore partito, azione! Ciao, sono Emanuele e volevo ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 19 va in onda Movieland, il cinema alla radio. Curiosità da Hollywood, panoramica sui film in sala, approfondimenti ed interviste con i protagonisti della settima arte. Il tutto accompagnato dalle canzoni che sono state la colonna sonora di tanti film e della vostra vita. Movieland, se siete amanti del cinema, è un appuntamento al quale non potete assolutamente mancare. Ogni sabato sulla vostra radio dalle 18 alle 19. Vi aspetto!